1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oh. Gianni. E dove sei? Che frequenza sei? AM, FM? AM. Balla. Gianni, 1, 2, 3, 4, 5. E se scendo così non ho capito, se mi fuori frequenza, buh. Ma su 10 sì, boh. Gianni, vai. Ma è sentito. Aspetta, che te lo faccio. Hola. Ok, dai, lo faccio così. Ciao Gian, ben sentito. Fa caldo. Come mai eri fuori frequenza? Ma con quale apparecchio stavi uscendo? Ma fuori frequenza, ma sei sicuro? Dopo controllo, magari ho toccato qualcosa. Sembravi ma da laterale così. Non si comprendeva cosa dici, si sentiva a parlare però non capivo cosa diceva. Infatti pensavo che fosse il mio, perché il mio c'ha il clarifer, no? Questo Royce, questo qui è il Royce, no? E c'ha il clarifer praticamente, il clarifer che se tu lo regoli in banda laterale poi lo devi di nuovo regolare come la prima in AM, se no ti fa andare fuori frequenza, capito? Sì, questo è l'altro, il birichino. Il birichino dell'ammiraglia del presidente degli Stati Uniti. Vabbè, quello lì me lo dai a me. Questo è bello, bello. Questo ti aumenta un po'. Aspetta che abbasso la chi se non fa rientro. Ora. Uno. Una potenza, abbassa appena appena. Guarda così, va bene. Troppo, ripeto. Ripete troppo. Guarda, 1, 2, 3, 3. Boh, mollalo così, così andava il DJ Lusso. Lascialo così che va bene. Così appena di ecco e ti dà l'amplificazione, capito? Non disturba. Allora metto di nuovo il macchinario. Ecco. Al massimo, capa. Microfono normale, su originale, CRT. Pompa. Hai capito bene, eh? Mi stanno chiamando anche dall'estero. E mi accuditi. E beh, ragazzi, non ne avete freddo, no? C'è un freddo qua, bubù. Oh, lascia birichino, no? Che bu. Eppure ho chiuso tutto mi stamattina, tutto al buio, ma come apri appena la finestra entra calore, anche se c'è ombra la parte dove la apri, entra caldo. No, io qua sono con, ho indossato l'eschimo, capito, per il freddo. Ehi, Luca, se ti porto un microfono, me lo fai il collegamento per il Ruiz? Ma mi serve anche il Ruiz. Ti porto anche l'altro di microfono, oppure ti porto i collegamenti come vanno fatti, ce li ho scritti. Vabbè, se c'è collegamenti scritti, ok. Perché questo qui c'ha il cavo troppo lungo, 2 metri di cavo, cioè vabbè che è comodo perché mi posso coricare, e non mi rompo le scatole, anzi adesso sposto un'altra cosa che ho tolto, che se non mi accendeva più un apparecchio, lo sai, ho riattaccato ho tolto i cavi, ho rimesso i cavi tutto quanto, cazzo, tocca una cosa con l'altra, boom, scende la scintilla, ho fatto tempo e tempo a spegnerlo, cazzo, adesso accende. Caspita, hai fatto i fuochi artificio. Lo sai cos'è? Che ci sono quegli anelli grandi e hanno toccato uno con l'altro. Gli avevo messo lo scotch, cioè il nastro adesivo, tra uno e l'altro per non toccare. Poi gliel'ho tolto perché dovevo togliere i cavi dell'altro, quindi cosa ho fatto? Me ne sono dimenticato e ha toccato appena appena, ma no. Non è successo nulla, per fortuna, se no mi avrebbe fatto partire l'altro apparecchio, caso che quello lì, questo bellino, scorso a 700 euro e si apparecchi. Ma è un casino, tenere tanti attaccati è un casino. Vai Marco, andato sei a abbronzarti le chiappe chiare. Allora, io sono andato solo una volta la settimana scorsa, e il mare era calmo, calmo, l'acqua a brodo, bello, però a mezzogiorno sono scappato perché stava diventando rovente, scalda troppo, capito? Già a mezzogiorno proprio c'era il fuggi-fuggi di gente che c'era lì dalle 9, 8 a mezzanove, io sono andato lo stesso con l'ora lì, però è proibitivo per me, il fisico non regge più il caldo estremo, per esempio del pomeriggio, non lo posso più fare. Il pomeriggio è un casino, caspita, se non ti pigli l'ombrellone, il dry, allora ti si cudineva ogni 3x2, perché devi fare così e con questa calura. No, comunque era organizzato e io mi sono portato ombrellone, ovvio, lo zaino con la roba, la sedietta, una sedietta di quelle, sedietta con la spalliera alta e il lettino anche, perché l'asciugamano lo metto sul lettino, perché se oltre la sabbia va a fiago di magari i pescatori della sera prima ci hanno pisciato sopra, allora per igiene metto l'asciugamano sul lettino, è comodo, ti inclini la testa, un bijou. Ora però conta che io sto molto all'ombra, cioè al sole ci sto 5-10 minuti, il resto sto o all'ombra o in acqua, possibilmente in acqua. Vai Gianni. Turista fai da te, non al pitur. Anzi già, il giorno che sono arrivato, io volevo essere alle 8 e mezza già in spiaggia, arrivo alle 9 dopo un quarto, e forse anche 9 e mezza, e trovo il vialone tutto, cioè tutto pieno di macchie, anche svoltando a sinistra dove c'è il Lido, dove c'è anche quel coso per le analisi che fa la risonanza, è tutto pieno, non c'era un posto a mettere una macchina. E ho detto, torno a casa, cosa, non posso fare niente, il divieto non la posso mettere, alla rotonda non facevano accedere, perché stanno cominciando a fare i giri di vite, se no lì diventa un casino, e se succede qualcosa le ambulanze non possono nemmeno entrare. Sai cosa ho fatto? Sono entrato nel parcheggio del Lido, c'è una sbarra automatica, prendi il biglietto, però non credo che tu sia obbligato ad andare al Lido. E poi mi sono portato la roba e sono andato a sinistra della rotonda, poco a sinistra, capito? Poi tornando ho caricato la roba e ho messo il biglietto in questo lettore, ti dice l'importo, 3,80 euro, però almeno ero vicino al mare, capito? Non ho dovuto fare 100 metri o più o centinaia di metri a carrarmi tutta quella roba. Rispondo io, Gianni non ha ripreso. No, è un casino, io c'ho la casa lì al tetto. È un casino, con i turni di lavoro qui in casa è un casino, capito? Gianni, ci sei o stai facendo le scintille ancora? No, mi sono coricato adesso 5 minuti per rilassarmi un po' dopo lo spavento, dai. Poi ti spiegherò. Ah, è che hai fatto l'elettroshock, dai, vado. Vai Marco. Lugo, col caldo non esco per il cuore, capito? Perché mi hanno trovato l'aritmia cardiaca, non si sa mai che mi può chiamare. Già, comunque anch'io ho notato un affaticamento a livello cardiaco notevole, cioè mi sento il cuore stanco, perciò non posso più fare le cose che facevo 20 anni, e il caldo soprattutto per me è molto molto pericoloso, quindi al mare si può andare la mattina e andare via ancora quando l'aria non è proprio bollente, però andare di pomeriggio non fa più. Guarda, io lo stesso, ma tutti sono così, tutti siamo così col caldo, non solo tu, capito Marco? Guarda, io sto prendendo, lo sai cosa, ho preso il Polase. Guarda, quelle bustine fanno benissimo, veramente ti risollevano in una maniera allucinante, sali minerali eccetera, che ti reintroducono. E veramente fanno veramente veramente bene, ti senti proprio benissimo, capito? Non senti l'affiaccamento che ti fa il caldo. Dopo che ne prendi due o tre inizi a sentire questa veramente di stare bene, poi ha il gusto di arancia, così che cioè, quello è molto molto buono, stesso il Supradin. Guarda, io le sto prendendo e credimi, ti fanno veramente veramente bene, non senti più l'abbiocco, l'affaticamento, queste cose qua. Vediamo un po', Gianni. Eccomi qua. Sto modulando con Ruiz, come sta andando? Bene, bene. Lo sai cosa c'ha? Che quando rimetto lo spinotto fa questo rumore strano. Deve essere o che c'è qualche filo che tocca e fa questo rumore. Capito? Cioè, se lo fa come colleghi il mic, tu lo senti nell'altoparlante questo? È nel mic, lo sento, il mic. Aspetta che mi attacco la colonnina esterna. Io mi stavo guardando quel film con Alberto Sordi, Le vacanze intelligenti, ero col ventilatore, boccheggiante. Comunque sì, Luca, il Polase noi l'abbiamo sempre usato, visto che siamo sempre così un po' mosci. E Polase oppure anche le imitazioni, quelle che vendono anche discount, alla fine se guardi principio attivo e anche milligrammi siamo lì. Naturalmente una cosa, bisogna essere costanti nel prenderlo, perché è inutile prenderlo una volta e poi non più, bisogna essere costanti, oppure dopo una volta che sudi per reintegrare i sali minerali lo devi prendere, però va preso con costanza come tutte le cose, se no inutile. E io sono molto distratto e già faccio un casino con la mia terapia, figurati. Ma infatti stavo dicendo, dopo la terza bustina inizi a sentire il beneficio, non subito alla prima e per attendere chissà che cosa, mica Viagra. Quella è un'idea, quello Polase potenziato, additivato con Viagra, ti tira su tutto, proprio tutto tira su. Ah, ecco l'incremento che ho visto allora, cos'era nel pantalone. Tira su tutti i muscoli, vabbè, quello non è un muscolo, è un corpo cavernoso, ma già vale lo stesso, la passiamo per buona. Gianni, vedi, fa bene anche a te al cuore, io scommetto che Gianni non le prende. Gianni non le prende queste cose, adesso si è fissato con questa tachicardia, ne prende una malattia. Gianni, non crede a tutto quello che lì dici. Vai Marco. No, avevo il grimbo. Che sogna radio. No, io forse avevo il cuore un po' grande, un po' ingrossato, leggermente più grande del normale. Insomma, ho un gran cuore, dai. Un gran cuore. Avete parlato in due, Gianni, ripeti. Ho detto perché sei tenera, un gran cuore. Oh, il caro caro. Ah, il caro caro. Questa qui, sapete che radio è? Sarà quella col display, porca miseria, non mi viene il nome, quella bella, porca miseria, con il frequenzimetro veicolare. Ecco, la 200 Dix. Quella lì. Questa è una gran radio, l'ho pagata perché l'ho pagata, ma va benissimo. È una bellissima radio, mi piace anche come estetica. Quella era una radio, una signora radio veicolare, americana, poi come le usano loro, no? Quelle radio spacca orecchie, le usano anche nel Super Bowl, altro che i 40-48 se li useranno gli italiani, loro usano queste qua, Cobra, questa roba bella massiccia, capito? Vabbè, diciamo che questa qua se la metto al posto di quella che metto in macchina, pompa forte, pompa ancora di più nell'altro del Magnum. e poi costa un sacco di soldi, quella quando è uscita nuova costava un pacco di soldi, altro che Omega Force. L'Omega Force in confronto era un giocattolino, troppo fighetto l'hanno fatto, quella era ancora di quelle un po' più vecchio stampo, mi belle tecce. Questa costava 700 e passa euro, non ricordo. Figurati, ti ci viene, vabbè, uno dice l'HF, ma se uno piace quella prende quella. E io c'ho un bel di radio ferme già, cioè, ma non solo, nella mia mente bacata mi frulla sempre in testa questa del 3009, quello moderno con la scheda del 6009. Ogni tanto mi gira in testa questa idea fissa, capito? Nonostante la 27 sia morta, mi viene sempre voglia di rovinarlo quello lì. Ma dove sei Luca? Dove sei splatterato? Non ti sei andato? Luca Flipper, dove sei andato? Dove sei splatterato di carica, pagata? Stai accordando. Ti stavo splatterando e questo qui non è mica splattere, è un casino perché sei vicino adesso. Adesso c'è l'antenna performante, non c'è più quelle antenne CPT. No, era sul 20 che stavo dando un controllo a Antonio, cioè entra anche Antonio. K del Roger. Atto, ci sei? Ero attivo, come sono qua, sempre lo stesso. Vabbè, già risolverai. Avanti Gianni per Antonio. Perché è bombo? Mandalo avanti Antonio, mi copi Marco da questa parte. No, nella zona della Toscana. Vi state parlando sopra, Avanti Marco. Sì, allora lo copio Santiago 5, non ho capito la zona. Avanti per Marco. Ciao Marco, sono vicino a Sorso io. Non so se mi stai ascoltando, molto basso io. Ehi, a Santiago 5 una radio di 3, dai, passabile. Quando è che, ciao Antonio, quando c'è il calice di stelle che Marco deve ubriacarsi? Non te lo so dire, vabbè, l'ho visto pubblicato oggi, ma non ho fatto caso la data, penso che sia una settimana presto. Allora Marco, pensati. Per cosa? Ho sentito che c'è un festival della Beozia a Sorso, in pare, o Senuri. A Sorso e Calici di Stelle. L'altra volta sono andato quando hanno arrostito i porcetti alla sagra del Forcetto. E ho preso il porcetto, un bicchiere di vino, il pane, 10 euro, vabbè, era buono come fresco. Avevi subito il gatto, ma andando a capo un bicchiere, ma è forte davvero, era buono. Guarda, io lo temo il vino di Sorso, sai quale? Quello giallo, quello bianco, il colore giallino, dolce, sembra succo d'uva. E mi tagliava le gambe, proprio tagliate le gambe mi. E se no il mascato non è buono, mamma mia! Il mascato una volta la giubilato, un ragazzo la cottura, mi sono messo a camminare a quattro zampe in Piazza d'Italia. Minchia, no io lo temo anche perché sono abbastanza disabituato, cioè io al di fuori dei pasti non tocco nulla, posso bere una birra limone a pranzo, durante il pranzo, il pranzo scusate, roba del genere, però magari un vino frizzante a pranzo, ma giusto mezzo bicchiere un bicchiere da proprio. Però di fuori i pasti niente, perché non sono abituato, io sono quasi astemio già. Il lambrusco a me piace molto, però leggero, va, come vuoi leggero il lambrusco, ma quello di Sorso di Bisaccabo come lo bevi, avanti. Bisogna essere moderati, perché poi è buono, ti attira, è come quando bevi il limoncello, il mirto, no? Uno dietro l'altro, e tacciaffi che bufaghigina. Luca, tu la metti che sta cosa a casa tua, avevo provato se l'avevo scolato la bottiglia. non ti ho invitato con l'acqua vite che c'ho, che mi ha portato quello che gli ho venduto il Colt. Mi ha portato una bottiglia e poi me ne ha fatto due e poi me ne ha fatto portare altre due, gliene ho comprato. mi pare me ne è rimasta mezzo in pulla. No, a me l'acqua vecchia non piace, non mi piace proprio, è alcol puro gas, non mi piace, mi piace sentire il sapore, la roba secca a me non piace, mi piace la roba amabile, il vino dolce, il moscato di sorso mi piace un bel. Guarda, tu prendi il moscato qua, questa cantina, e dopo mi dà la risposta, è poco e buono già, mamma mia, ti dà quel gas garotto. Oh yeah. Quale cantina, Lu? Questa che c'è qua giù, vicino a casa. Un vignolo? No, la cantina proprio che vende vini, vini, birra, pane, pistucco, di tutto. E di dove è questo vino? Non lo so già, non lo so, però guarda, è dolce, ma è cazzo, giusto, no? Di chi tu che ti piglia a gola. Però, oh oh oh. Buono. Caspita. Io senza bere birra adesso sono un po'. La birra già la bevo, dico la verità, perché l'estate ci vuole. Avanti, Antonio. Ok, comunque assegnali pure che è buono il moscato, non ti preoccupare di quello che sono forse più buono di quello che sono, posso dire, i vini giustamente bisogna gustarli bene, diciamo io mi hanno regalato una volta due litri di vino, ma il pregio prendeva qua. Di aiutare una persona, forse non appunto diceva, ah non è buono questo vino, e poi la moglie ha detto, non è vero niente, allora il cittadino gli ha assaggiato il vino, cazzo, dice, ma questo strappella le gambe proprio, era veramente buono. Sì, ma io te lo sto dicendo, ho bevuto un bicchiere lì alla sagra, c'era la banda musicale, c'erano tipo i mammutoni, se caso mi sento accarezzare la faccia, la battuta la faccia ridda. Comunque quello di Simi, penso che è sotto gli assorso, perché qui hanno fatto la cosa. Mimmi. Però in privato, gente privata che fa moscato a Simi, non sotto gli assorso. Ma non so, io ho bevuto con le risorse, ma burro imbriagato, non ti riguardo, è buono burro, perché mi ha preso la bocca, bevi uno, bevi l'altro, alla fine mi sono imbriagato, ma imbriagato non è proprio. Mi ricordo che mi hanno caricato in una macchina un amico, le seguite di dietro, un bucato, vedevo i lampioni che camminavano, immaginati. Poi ti lamenti, i trigliceridi, andato sia a visitare, sono andato già, sono rimasto meravigliato, a parte i trigliceridi, però mi ha detto guarda, sta andando benissimo il diabete, va bene, i trigliceridi, mi ha detto sto prendendo questa pastiglia, adesso tra un mese faccio il controllo, perché voglio far scendere questi trigliceridi, non ho un peso, già mi ha raso si biglia, ma vabbè che ho mangiato frutta di stagione, quest'anno ciliegie, saranno i ghisi, I trigliceridi sono grassi del sangue, e roba grassa mangi tu, roba rossida e roba rossida, quindi sono i trigliceridi, a quanto ce li avevo, 3,20. Rosso, se non ne so più fendi, non ne sto più facendo, già a parte adesso c'è caldo e non è vostro, a prescindere. Non ne sto più facendo come prima, sto mangiando, ho eliminato anche il pane, ho eliminato, perché, no sicuramente la frutta, per forza, birra non ne picco, qualche bicchiere di vino ogni tanto, ma birra, non so quanto tempo è che non ne picco più. Proprio non mi interessa, a meno che non capita l'occasione da un amico che sia a casa sua e ti mette il bicchiere, ma se no, io non che buccia burro anni in frigo. No, 900, no, e a 1000 sono arrivato, capito? Che adesso mi ha dato un'altra ancora di pastiglia a farle scendere. Allora, ti dicevi che devo essere al massimo 150. Che sia mille le superate gran lunga. No, lui mi ha detto che sta andando benino, no, benissimo, va benino, mi ha detto. Quindi, sta andando, non ha peggiorato, sta andando benino, va. A me mi ha detto, il diabete sta andando benissimo, benissimo. Infatti ha detto, va, mi si goza, va. Dice che ti gliceri di prendere questa pastiglia perché... Boh. Adesso vediamo un po', infatti il prossimo mese vado e mi faccio di nuovo il prelievo per i trigliceridi e vediamo un po'. Ma Marco è andato, se ne io? Marco? Io l'ho fatta la visita e sono dovuto tornare anche un'altra volta perché mi ha detto mi ha messo quell'apparecchio, già lo sai, io quando sono tornato a casa c'avevo cazzo tutto il sangue della maglietta, ho guardato che c'era staccato. E che cavolo, ti ho telefonato e subito glielo ho detto i documenti li dico quando viene per mettere l'altra, per ordinare l'altra, gli faccio il foglio e tutto qua. Cazzo, gli ho detto che non la volevo più, che mi era avuto l'emorragia, cazzo, che mi si è fatto tutto livido il braccio, me l'ha messa male quella macchinetta, ti dico io. Sono entrato, eh? Ripeti Marco, ripeti, tranquillo. Siamo tutti qui e tutti insieme, ora che siamo a Cuba, all'uscio. Ehi, ma Antonio c'è ancora? Per capire se mi copia meglio adesso, perché purtroppo lui con la propagazione che c'è sotto mi arrivava Radio 2 negli ultimi passaggi, era un po' ostico. Antonio, se ancora mi copi? Sì, ti sto copiando, non so se stai copiando a me. Sì, già ti sento un pochettino più forte adesso, ti sento. Forse hai aumentato un po' la... qualche watt hai aumentato. Ok, comunque io vi lascio, continuate pure perché se dovete riservare la parita, non so meglio, qualcuno qua arriva il messaggio. Ok, ci sentiamo alla prossima, grazie e buon proseguimento di serata. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie a te per il questione, avanti Marco. Io, ciao Antonio, io stavo pensando a Giovanni, Giovanni che parlava da tipo Platamona Sorso, non mi ricordo, vabbè, riprendi Luca. Esatto, comunque 6-8, avevo il rifiuto un po' chiuso, 6-8 di segnale qua, radio 4, boh, 4 ti si può dare, vabbè, microfono normale, stai usando. Paragava. Non avevi cambiato medico perché Gianni, o no, c'è per quella bene. Io sono lì a San Camillo, mi trovo non bene, ho di più. Ehi, allora mi hai detto, no, io ci ho sempre il solito, va bene così, anche se è un po' schizzato come medico, ma va bene lo stesso. Ti risponde tutto secco ogni volta quando gli dici una cosa, dai. Però vabbè, ti fa fare le cose che devi fare, quindi non me la fotti nulla. L'ho cambiato lui, e ora all'età mia, anzi un anno in meno c'ha di me, c'ha 63 anni, tu se me ne ricordo perché con l'età che ho, non lo so se mi ricordo, ma si ricorda tutte cose strane, capito? Non sono d'accordo che si sta ricogliolendo, perché si ricordava che i documenti me li aveva dati, glielo dica, gli ha detto all'infermiera, stava ascoltando al suo, glielo dica che i documenti ce li aveva nella cartella, che glielo già dati, guardare bene. Io ho la cartella chiusa di quelle dure, no? E metto dentro, c'è scritto diabetologia, poi c'è cardiologo, c'è questo, c'è l'altro, sono tutti catalogati. Quindi da lì non fuggi, eh. Ah, beh, ma allora guardano su internet, per le... c'hanno la tua cartella, c'hanno anche loro. Però la mia guarda su internet, tutto c'è. Ma tu non c'hai Pacifico perché? No, quel Pacifico non è andato ancora. Il mio mi ha detto che era andato in coso, che è la vostra impressione, invece l'ho visto io. No, io c'ho a coso, dottor Friso. Bravo, me l'avevano assegnato quando l'ho ricoverato, perché ti assegna un diabetologo quando... Bravo, molto in gamba come medico. Io c'avevo la scardaccio, è andata in pensione quella lì, così che mi aveva dato questa di San Camillo. Io l'ho avuta, l'ho cambiata, perché era rincoglionita, non si ricordava da una volta all'altra le cose. Che va un gambo di burraccia, di nido di burraccia. E allora, se mi aveva fatto ricoperare, chissà. Lei con questi segretieri mi sembrava una cassa di birra in giorno. Ma gente, se non bevo io, mi faccio ricoverare. E non ha risolto nessun problema, nessuno. Come te ne sono entrato, sono uscito. Lui ha fissato era che io bevevo non so quanta birra. Ehi, è zitto a me, a birra. E una volta c'è la mia moglie, gli ha detto... signora, gli faccia fare di più lavoro a suo marito, che se no mangia e poi si sa lì su via. Non mi sono abbordato così, non lo so se di tanto siamo foraggi, noi già. Siamo, per loro siamo favoraggi. Tu li puoi dire, la verità è canto di Biasi, testimoni, mica testimoni. Siamo sempre favoraggi, capito? Vai Marco, che se ne frega Marco, prende una pasticchetta di quelle blu e lui è a posto. No, no, solo per dormire, a parte vabbè la terapia quella ormonale sostitutiva, solo per dormire devo prendere qualcosa perché veramente è tosta, poi quando c'è anche caldo di sera, perché si apre tutte le finestre, entra un po' di fresco, ma come poggi la schiena sul letto, ti si accalda la schiena, se ti metti di lato è caldo di lato, se ti metti di pancia è caldo di pancia, dovresti stare in assenza di gravità sospeso in aria, in modo che il corpo sia circondato solo dall'aria per star bene. E fai come fa Kiri, no? Come? Come fa Kiri? Guarda, me ne vado sulla ISS, sulla stazione spaziale, almeno lì sono, hai visto, tutti a mezz'aria. Chissà quando scorreggiano come fanno lì. E se lo sui peggiori, e lo devi fare, come quando il cane la fa sul divano, non ti sarebbe capitato a te che la fa sul divano si crepa. E allora, ma lì rimane dentro la tuta. Lì si affanna la maschera. Allora, ovvio. E la conserva, dopo come se la toglie via. Marco quella pastiglietta la prende quando va in campeggio, ha detto. Ha detto che come la prende, si mette l'asciugamano sopra e c'ha già la canadese, ha detto. Io non ho mai avuto bisogno di bigliare, ma se le prendo mi fanno anche male, perché adesso c'è poco sasso di alcune, ti fa venire tachicardia quella roba, quando ho sentito. Ti fa venire mal di testa, tachicardia, i luci di bigliare. Ma io credo che bisogna fare delle visite prima di prendere determinate cose. Non lo so, io non ho mai bigliato. Credo che ti fanno fare elettrocardiogrammi, cioè noi rabili usiamo in farmacia e a tuo rischio e pericolo. Io vuoi sapere una cosa chimica che lavora sulla palpitazione del cuore perché ti fa emanare più sangue nelle arterie. È un pericolo, sempre un pericolo, perché il lavoro di quella pastiglia lì è fare malare più sangue e comprimerlo più forte, capito, il cuore. Sì, pare sia un vasodilatatore massiccio, infatti sai cos'è? In realtà ci sono dosaggi minimi, però molti, cioè ho letto, certi uomini, non molti uomini, certi uomini, pur di fare bella figura alla prima con una tipa, se lo prendono magari bello forte, magari non sono più giovincelli, e lì parte la pompa lì, capito? È pericoloso, bisogna stare molto attenti con quella roba lì. Io non lo devo dire, ma ve lo dico, una volta siamo andati a prenderne uno che ne aveva preso due di Viagra e gli è venuto un infarto. L'abbiamo portato con un infarto in corso, al pronto soccorso. Però ha retto. Ma non lo so se la sensibilità sia la stessa prendendo quella pastiglia. Vabbè, comunque sì, bisogna. L'altro era il Cialis, il sostitutivo. Ma lì bisogna essere, vabbè, non lo so, non mi sono mai messo il problema. Prima ci vogliono lavorare e poi si prende. Appunto. E mi rimane un problema. E via. E vabbè, ma tu sei giovane, ancora Marco. Ma mi rendo conto di certe cose che facevo 20 anni. Proprio la sento sul fisico, sui muscoli, che sono già messi male, sul cuore, io ho detto anche a mia zia, mi dico, io sento il cuore molto affaticato a seconda. Ora ieri sono uscito col caldo, ho fatto la spesa col caldo, poi sono andato a lavare la macchina col caldo, ma non è lavarla con quello spruzzatore a gettone, poi asciugare i vetri, passare, ho passato la cera sul tettuccio, sul cofano, sai cosa vuol dire? Dare la cera, dai la cera, togli la cera, me ne stavo uscendo la mazza, il cuore lo sentivi pum pum pum, ho detto babà, poi col caldo che c'era, ho detto qua bisogna darsi una calmata. Ma infatti col caldo, io non esco, quando c'è caldo così non esco, dico la verità, a meno che sia proprio una cosa necessaria, prendo la macchina, attacco il condizionatore, vado lì a fianco a casa, c'è il discount, c'è il negozio normale, ce ne sono due negozi normali, c'è un discount, e faccio la spesa e me torno. Gianni, tu la usi la cera sulla macchina, quella col tampone, tipo Cerarelli o simile, magari è Arexon? No, io la faccio cerare quando la lavo, una volta sì, una volta no, li faccio mettere la cera anche, capito? Infatti l'acqua scivola, io faccio una volta sì, una volta la metto, una volta no. Dai, la cera toglierà la cera, così fai. Luca, sei molto saturo e basso di radio però, se puoi migliorare la modulazione. Ho detto, dai la cera, togli la cera, perché il microfono è normale questo, guarda. No, adesso è un bijou. Hai capito Marco Gianni cosa fa? Dai la cera, togli la cera. Là, in mezzo all'acqua, cioè, quella che si spruzzano i lavaggi. Ah, quella è, non sai cos'è, io, vabbè, la carrozzeria anche vecchia, cioè, potevo fregarmene, avevo preso quella col tampone, tipo la Rally, mi pare marcata Ericsson, quella è la migliore, ti lascia tutto quello strato bianco, lo fai asciugare bene, e poi con un panno pulito, so che te ne fa scendere la mazza già, cioè col caldo, anche se all'ombra, te ne esce l'anima, mi dispiace, ma non è per me. Guarda, allora, la più comoda è quella spray, sempre dell'Ericsson, c'è la spray, tu la passi a piccole zone e passi subito il panno pulito e asciutto e l'effetto suo poi lo fa idrorepellente, quella è più immediata, ma l'altra te le fa scendere la mazza, più a toglierla che non a darla, capito? Però è migliore, quella è proprio cera vera e brutta. Sì, in effetti è così. Non so se lo usava Rally, quella che si chiama Rally, te la ricordi? Sì, quella è la migliore, quella al barattolo col tampone. È così l'Arexon, sono le migliori quelle. Però d'altronde quello te lo fai fare perché è una palla. Come il film Karate Kid, ti ricordi? Dai la cera, togli la cera, mi appento. L'Arexon, i prodotti sono tutti buoni, io uso il nero gomme con lo spray, ma per fare gomme luci, e stanno per un tanto tempo. Ah, nero gomme, io vabbè ce l'ho di un'altra marca, diciamo non le fa lucidissime, che poi acqua e zucchero mi. Quando noi non avevamo il nero gomme, mettevi un po' di zucchero nell'acqua in quantità, adesso non mi ricordo, e ti fa le gomme lucide, che poi si appiccica la polvere in fretta perché rimane appiccicaticcio, capito? Piuttosto, ma Luca, tu guidi? Certo che guido. C'è una macchina, se ti interessa, a roba qua. Guarnizione è stata bruciata. La vuoi? Aspetta che non ti sei, devo alzare il volume io, ripeti. Ho detto, se vuoi, ce l'ho qua la macchina rotta, guarnizione è stata bruciata, se la vuoi, ho detto. No, a posto, aspetto a bruciare la mia di testata. Non sai cosa ti perdi, vabbè. E a pesca già, stai più andando? No, sono fermo lì vedendo le camere, ma le guardo ogni tanto, le ho pulite, ingrassate, tutti i mulini ingrassati, pulite, lavate, e stanno ridendo. Sì, le mie pure, i mulinelli vabbè, andati. So che già, sai cos'è? Io andavo di notte, verso delle esche, cioè... Poi senza contare l'umidità, il coso, questo è legato al discorso di prima, non ho più 20 anni, non ho più voglia di stare così, poi a meno che non hai una passione così sfegatata, però non ho più voglia. Io già ero così prima, non c'era sabato che mi facevo la notte, sì da domani mattina, poi tutti i giorni andavo, perché uscivo da lavorare almeno 2 ore me le facevo e poi tornavo a casa. Se prendevo, se no tornavo a mani vuote, però andavo. E li riconoscevo tutti a Porto Torres, perché andavo tutti i giorni, quindi li conosco tutti i gatti. E una volta sono arrivato, erano tutti lì, e da me mangiando, già, non mangia nulla, stasera. E c'avevo 4 o 5 bocconi che ho comprato alla pescheria perché non c'avevo esca e ho comprato quei bocconi. Ho lanciato 2 canne a largo e una proprio di banchina. Gli ho messo il cucchiaino con il manico piegato per fare il segnalino se mi accompagna, una taluta ho preso, una taluta lì al molo, ma bella, mi sono stato 1,2 kg. E gli ho detto qui, ma lo prendi col corpo, me lo occupi. E dice, sì, sì, sto arrivando, faceva piano piano per farmelo perdere. E allora sono raggiunto, ho giubilato la prigione, sono andato, ho preso il corpo, me lo sono occupato io. E tutti, ma sembra un pesce di frambale, biglia, tutto è così biglia. E poi l'invidia tra pescatori, mi, per carità. Una mattina sono arrivato alle 4, questo me lo ricorderò sempre, c'era uno a pescare, non sai come si fa, no? E ho detto, buongiorno. E mi ha guardato di traverso, cazzo, basta, non ci sono dubbi. Prendo, butto le canne, metto i cucchiaini, cazzo, mangiava una dopo l'altra. E lui non aveva mirato un pesce. Prendo, oratile stavo prendendo, non un pesce grosso, oratile la porzione, la 500 grammi, così. Cazzo, prima una, appurato, alla fine ci ha buttato l'acqua che avessi, che se ne è andato in Castagnoli, ha sbattuto la sedia, della serie che uno va per rilassarsi, se va a farsi il sangue male, malo non è più nemmeno un passatempo, un hobby. Vabbè. Quella gelosia, quella si chiama gelosia. E la dici che non ti cagava, mi ha guardato lì, mi guardava di sbieco, come se il cucchiaio che andava a recuperare, ma lui che mi guardava di traverso. Non potevi dirgli sottovoce, lo cinculu. E vabbè, le mie pescate già me le ho fatte, io c'ho ancora delle foto, belle, di saraghi, addirittura ho preso la torpidine una volta, mai preso l'avevo, la torpidine, l'ho riconosciuta a mano a mano, se no mi dava la scossa, l'ho entrato e colto in testa. Beh, sono stato le ore pescando, questa sempre con coltello in testa, la torpidine, la porta a casa, la metto nella bandiera, era ancora viva, dopo ore. Mi bisogna stare attenti, per caso era quella con gli anelli colorati, perché una volta al quinto pettine ho trovato proprio in riva, appena entri lì a un metro, una piccola di torpedine, aveva quindi il bordo arrotondato, giustamente, quella codina sempre con le pinnette, e aveva degli anelli colorati, già dall'aspetto era lonfissima. Sì, valeva lucina chiara, con gli anelli, con degli anelli grandi, giunto intorno al corpo. Quella lì. Un'altra volta il serpente di mare mi ha preso, l'ho visto lottando in superficie, ho preso il corpo e l'ho bisigato. Poi l'ho fatto a pezzettino e l'ho usato come esca. Io mi ricordo che aveva una passione bella radicata, tante volte anche mi aveva invitato, quante volte al baracchino me l'hai detto, Marco andiamo a pescare, io non ne ho voglia. Ma se io adesso mi faccio la licenza, già ci vado, perché mi piace, non comprerò esche tipo di birmi come le compravo prima perché sono un beccario, mi comprerò le cozze che costano poco e pesco con le cozze, si pesca lo stesso, non è che non si pesca. Adesso rilanciamo Luca, io purtroppo avevo il vizio di prendere americani, solo americani, ma sai perché? Per il sangue, come il pesce sente il sangue e impazzisce, però gira secondo che pescette, ti pulisce l'amo, capito? Ti pulisce l'amo e si mangia il verde. Anch'io pescavo con gli americani. Gli americani ma prendi di tutto, prendi mormore, saraghi, orate, di tutto e di più. Ho preso anche le razze con gli americani. Di tutto prendi. Quello che c'è prendi. Perché sono sanguigni come i birmi e... Ma il mossingheggio rimane giù. Luca, tu pescavi? Luca pescava anche col fucile come me. Io ho pescato anche pesca subacquea per molti anni. Ah no, hai ragione, Luca non pescava a canna, pescava a sub, mi ricordo qualche video. No, credo a canna chiedevo, No, anche con la canna pescava. Con tutti e due, come me. C'era uno che andava a pescare con la canna, c'era uno che andava a fare pesca subacquea, stavo anche 4 ore quando facevo pesca subacquea, senza muta, la muta c'era in terra. E quel giorno che ero al mare sono andato agli scogli a vedere sempre con maschere e pinne vedevi bei saraghetti, cose, che è troppo vicino alla riva, lì non puoi, non puoi metterti a portarti il fuciletto, è troppo lungo, capisco. Se passa la costiera, già ne ho saputo anni fa, due decenni fa, già me lo ricordo. Ehi, una volta a me mi sono avvicinata, è tutto a posto? Io, sì, non c'è problema, grazie, arrivederci, guarda, c'è cazzo di montoso, però io mi ricordo che i polpi non li vedi più, polpettini, prima Guatamona, qui in Polpettine, dove c'è scoglio lì, polpetti proprio lì, che stavano in piena vista, convinti magari di essere mimetici, tu bastava che avessi anche la fiocina a mano, gli davi la stoccata, preso il polpetto, adesso non vedi un polpetto a pagarlo un milione, a meno che non siano intanati, ma rispetto a una volta è tutto terra bruciata, devono avere svuotato tutto lo svuotabile, perché sai, lo fai tu, lo fa un altro, lo fanno altri 100 bagnanti, c'è volte anche a meno nudi a seconda di dove ti trovavi lo potevi prendere. Io andavo lì dietro gli scogli del quinto pezzo, ho preso seppie, ho preso scorpari, ho preso saraghi belli, ora te no, ma saraghi, seppie ho preso, un bel di roba, prima c'era un bel di roba, poi adesso che è battuto dietro si prendevano anche le cozze, era pieno di cozze. Ehi, Luca, sei ancora? Cozze, ostriche e bocconi, tutte e tre. Io, ma naturalmente tu la cozza la butti col guscio intorno, no? In modo che l'orata la riconosce come vera, cioè spacca il guscio e poi va al frutto. Ma io la cozza la uso sia facendo l'ava dentro così come dici tu, oppure la metto nell'alo, tutta intrecciata, li metto il filo elastico e pesco col filo elastico. E così per pescare di tutto, però me lo mangiano anche i pesciolini piccoli, perché la cosa sono ghiotti tutti i pesci. Io ho provato, vabbè, le solite amenate, dai, americani, coreani che si rompevano con le dita, erano troppo teneri. Il bibi, quello grosso come un mignolo, il bibi, c'è presente? La cordella, che era quel vermone rosa lungo non so quanto, mezzo metro o un metro. Canolicchi, però alla fine ci vuole pazienza già. Che schifo, è rimacciosa la cordella, l'ho comprato un paio di volte, in primavera si trovava la cordella la trovavo in primavera, però veniva più, e poi non si mette in frigo quella lì resta fuori del frigorifero, perché vive nella terra proprio. E io le ho usate tutte le esse, ho usato gamberi, ho usato calamari, ho usato il filetto di sardina spaccato in due, messo la moletta legato col filo elastico, e ho usato di belle esche, ho usato il granchio. Il granchietto vivo anche, innescato vivo, e io quello, vabbè, non personalmente mi pare di no. Vabbè, comunque poi ti ho detto, mi sono rotto le scatole, eccetera. I granchietti di sabbia sono i migliori, li devi togliere con le zampette che c'hanno dietro, che usano per scavare, se no se ne vanno sotto la sabbia e non li trovi più. E quindi con le due zampette, al posto della zampetta, li fili l'amo dentro e lo lanci, e rimane vivo, capito? Eia, certo, non vorrei essere nei panni del granchietto, poveraccio, immagina uno che ti stacca le gambe, ti infila un gancio, mamma mia. Vabbè, lo so, ho pescato con i bigattini e c'è quello solito con la mano. Ah sì, bigattini quando eravamo nella cacca come soldi, prendevamo i bigattini perché costavano poco e ce ne erano un bel, però va. Io li avevo provato a fare i bigattini, lo so, però poi ho saputo che qui sono trattati con delle farine particolari. Avevo messo un pezzo di pollo dentro un barattolo di vetro e poi l'ho messo non in casa e l'ho fatto giù. L'ho fatto guastare, si sono formati i bigattini e li ho presi per pescare. Ma aveva un fiago, non si poteva stare. Beh, infatti, quando sono sul cadavere, l'odore è terribile. Va bene, Luca, puoi riprendere? Tu pensa ad un amico mio che se l'ha dimenticato in macchina, lì sono tutti scappati nella macchina e si sono formati tutte le mosche, un casino. Allora, una volta io nella macchina avevo dimenticato, aspetta che te lo spiego, hai presente i rullini fotografici, no? I rullini per le macchine fotografiche, la custodia del rullino, quella col tappo. Io lì dentro una volta per andare a pesca avevo portato striscioline di calamaro, di totta, cos'era? Roba che avevo trafugato da roba che doveva cucinare mamma, no? L'ho messo in questo rullino, eccetera. Me l'ero dimenticato in macchina, era estate, e a un certo punto traspariva dal cofano un odorino leggero ma strano, no? Cioè passava già attraverso, non si era aperto. Beh, come tocco questo barattolino, parte il tappo, come l'ho tolto dalla macchina, per fortuna non è scoppiato in macchina, parte il tappo, sala per la pressione, si sente già questo odore terrificante, per poco non sono svenuto. E a te grido, da voi non riesci a fare lo fiano. Tu pensa che una volta ho pescato, oltre agli altri pesci, ho pescato anche, come si chiama? Ma lo scorfano di quelli grandi, però se era stato 800 grammi, bello, e l'ho sparato alla testa, e se l'ho messo nella busta, se lo agliati, questo scorfano a portarlo a casa, ha puzzato, e me era fresco. Già, quelli pesci sono già tutti strani, sì, puzzano la Bibbia, da morti non ne parliamo. Lo scorfano se ti bugni a fare lui, lagna, scorfano, quello di busso di tutto il pesce da zuppa in particolare, se ti fuggi ti secca la mano, ti devono fare le iniezioni perché ci si bloccano le mani. La temo, la lagna, ragna, trascina, come la vuoi chiamare, quella deve essere parecchio dolorosa. E magari uno mentre cammina in spiaggia, sai, loro si mettono a filo di sabbia, se ci metti il piede, ui, deve essere una cosa allucinante. E dice che ci vuole acqua caldissima, la più calda che puoi sopportare, perché il calore ti come dire, neutralizza il veleno. Distrugge la molecola del veleno la temperatura. Più vabbè, ci vuole un antidolorifico perché è allucinante. La razza poi non ne parliamo, la razza può essere anche. Un ragazzo si era tuffato al Ghero, dove era tempo, anni fa, si era tuffato mi pare dalla barca, aveva preso la coda della razza sul petto, di petto era morto. Sì, velenosissima, lo so. Io guarda, sono andato al Ghero l'altro giorno, e c'era lui pieno zeppo, non fanno andare, lì al Ghero, ci si mette la gente davanti, l'acqua è ghiacciata, ma è meglio portarla là per me. Allora io mi ricordo, a me piaceva molto il lazzaretto, solo che in piena estate c'è un caldo terrificante, ma non come Platamona, terrificante, e in più l'acqua è ghiacciata come le bombarde. Tu magari bollente tenti di entrare in acqua, rifarti il bagno e ti fulmina. Infatti certi turisti secondo me si sentono male per quello in acqua, perché sono bollenti, anche se tu stai all'ombra c'è la sabbia che riflette tutto il calore, cioè se ti tocchi il corpo lo senti che è bollente, come vai in acqua nell'acqua ghiacciata ti crepa. Cosa è andata a Buguri? Era pieno zeppo di gente, questi tedeschi maleducati mi hanno messo l'asciugamano quasi sul mio, cioè attaccati proprio, non esiste, vai. Che tra l'altro c'era uno che aveva il canettino che vendeva cocco bello, cocco fresco, bibite eccetera, e si è spostato, quindi lo spazio c'era per me, cioè, si è messo attaccando a lui. È lo stesso, guarda, Capo Galera, tanti anni fa, Capo Galera è presente, no? Che c'è quella torre che fa confine col parco, no? A sinistra non è parco, dalla torre in poi sulla destra è il parco, c'è una spiaggetta piccolina. E quindi io sono arrivato prestissimo, piazzato tutto, credo di essere stato il primo, vado e sto un paio d'ore in acqua, no, tutto con l'attrezzatura, torno dopo un paio d'ore e vedo tutto seminato di, ma sai cosa vuol dire? Proprio le asciugamani, uno attaccato all'altro, non c'era, e io praticamente ho dovuto, calpestare, ho detto scusate ma qua non c'è posto a passare, ho dovuto calpestare gli asciugamani degli altri per arrivare al mio asciugamano, è così uno schifo però. Che fa?